Premio ai tenori un bicchiere di bianco, ai bassi uno di rosso. Riesling e Borgogna per la verità. Tale la regola del coro di Capriva. All'ultima danza partecipano con entusiasmo anche gli emigrati, in fusione d'animi e di cuori con i caprivesi. Non lontano l'Isonzo, carico di destino. Intorno le vigne, teorie di cipressi, la campagna che cerca il mare. Bel paese, antica gente, conserva dopo mill'anni i fermenti vitali che la rende incorruttibile all'urto delle invasioni a contatto con razze e civiltà diverse. Ha ragione, Mister Gigi. Valeva la pena di correre tanto mare per rivivere un'ora di commozione a Capriva. Ma non a tutti è dato tornare, anche se richiami lo scampanio che annunzia la sagra del paese. Allora, come è avvenuto a Madonna da Prato, 150 anime in quel di Tarcento, il microfono ha chiamato sul sagrato i parenti di emigrati in tutti i continenti. Giuseppe Armano saluta il figlio Emilio emigrato alla Falda, Argentina. Tancia luz di topari a Nini e anche ai Fruz. Giovanni Comini al figlio Arturo, residente pure alla Falda. Mangi Arturo, ostin ben. Gemma Gardeliano con le figlie Mirella e Urbana al marito e padre Giovanni, residente a Merida, Venezuela. Giovannino, senchi, ti saludin. Ti mandenta de busadis, o sperem pres di riva di te. Ida Martinelli, al figlio Luigi, residente pure a Merida. Scrivimi, Gigi, chi è ore, saluti Tomari. Fadini Luigi, al figlio Giovanni, residente a Pittsburgh, Stati Uniti. Giovanni, o ti mandi tanti saluti a te e alla tua sposa e alla frutta. Scrivimi, non stendo ben. Maria Cois al figlio Giacomo, residente a Toronto, Canada. Giacomo, o ti bussi e o ti saluti, la tua mamma. Teodora Giorgione al fratello Albano, residente a Toronto, Canada. Maldi Albano, o ti pensi in sempre, o sei Teodora, arrivi di si presto tu. Erminia Armano ai figli Aldo e Carlo, residenti a Douala, Camerun francese. Aldo e Carlo, un saluto, us mandi ne grande bussade lo chidoi. Ada ed Ersilia Agosto ai mariti Pietro e Giovatta, residenti a Dahan, Arabia Saudita. Piri, ti saluti, sta ben e tanti sbussati dal frutto di me. Mandi tite, o sinchindo già a darti un saluto. Mandi? Mandi papà, o ti mandi tanti sbussati. Giovanna e Maria Pellegrini al marito e figlio Amadio, residente a Mildura, Australia. Ma di Mario, con la speranza di viori si ben, io stai ben, gli sfrutti sanche. Salute Alice, Giorgio e Froce Doc, mandi. Mandi Mario, Alice e Giorgio, stami ben, io sono tua mamma. Mandi papà, Dio e Dio, stai ben, arrivederci a presto, sono Iana. Vilma e Maria Volpe ai mariti Luigi e Giobatta, residenti a Vatte, Nuova Caledonia. Mandi Gigi, non stai ben, tanti sbussari dal frutto. Mandi Tite, non stai ben e tanti sbussari di Doc. Lidia Aloisio al marito Giovanni, residente pure a Vatte, Nuova Caledonia. Mandi me, bussati dai frutti. Gente che torna, che tornerà, non appena l'assiduo lavoro le avrà concesso qualche risparmio. Nell'attesa, le donne mandano loro un pensiero d'amore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Gente che torna, 37esima trasmissione dedicata agli emigrati. Musica di Arturo Zardini e musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione il gruppo folcloristico e l'ottetto di Capriva diretto da Francesco Capello.